Alma Edizioni presenta la collana Italiano Facile Ragazzi. Prime letture per stranieri. Una nuova amica. La scuola Mazzini. La scuola media Mazzini è molto grande. Il primo giorno di scuola Alexandra non trova la sua classe. Viene dalla Romania. È in Italia, a Milano, da poche settimane. Milano è una città molto grande, con molto caos. Iasi, la sua città in Romania, era piccola e tranquilla. Anche la scuola di Alexandra era piccola. La mamma la accompagnava tutti i giorni. Adesso la mamma è al lavoro e Alexandra è sola. Alexandra è alta e magra, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. La bidella, la signora Mariella, la vede. La signora Mariella lavora da tanti anni nella scuola Mazzini, pulisce le classi e controlla i ragazzi. Conosce tutti i ragazzi e i professori. Ehi ragazza, sei nuova? Come ti chiami? Alexandra Leano. Qual è la tua classe? Seconda, dice a bassa voce Alexandra. Seconda G. Vieni con me, ti accompagno.